noi abbiamo incontrato ed intervistato Vincenzo. Cosa ci portiamo a casa da questa esperienza? La sua storia, le parti belle e le parti brutte che ha dovuto condividere della sua vita. Ci ha colpito sentire un uomo raccontare la sua fragilità perché di solito c'è troppo orgoglio per aprirsi e condividere queste parti di sé. Vincenzo non ha avuto una vita semplice, ha dovuto affrontare grandi problemi. La fragilità per lui è di color nero e suona come un do profondo. Ha perso il suo lavoro per un suo errore e ha iniziato a viaggiare per l'Europa. L'abbiamo ascoltato con attenzione e abbiamo provato molta tristezza. Ci ha colpito la voce distrutta e sul punto di piangere quando ha raccontato della sua compagna, venuta a mancare da poco. Ci siamo messi nei suoi panni e ci siamo portati a casa il suo dolore insieme al suo insegnamento. Fatevi aiutare quando ne avete bisogno, chiedete aiuto. Pensiamo che la fragilità sia un sentimento difficile da superare, ma che hanno tutti. La persona che abbiamo intervistato si chiama Andrea, ha 26 anni, soffre di epilessia da molti anni e questa malattia lo ha fatto sentire diverso dagli altri. Ha dovuto saltare non solo gite, ma anche rimandare e rinunciare a molti suoi desideri. La fragilità per lui è la voce delle persone che gli dicevano che non poteva farcela. Con tanto impegno è riuscito a dimostrare il contrario e lasciare i suoi amici a bocca aperta. Ci ha colpito di Andrea il valore dato all'amicizia. Si vedeva che ci teneva molto e l'importanza data agli obiettivi da raggiungere come traguardo e realizzazione. Noi abbiamo intervistato tre persone, tra cui Lorenzo. Lei ha 53 anni. Ha smesso di lavorare quando si è dovuto sottoporre a diverse operazioni alle mani. Molte persone l'hanno supportata. Grazie a loro è riuscita a superare questo periodo di fragilità. All'inizio ci siamo sentiti un po' a disagio, poi però ci siamo sentiti dentro la storia.